La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. E come sempre ogni sabato e ogni domenica qui su Radio 24 scocca l'ora del cinema, La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi, weekend finale del mese di luglio con un notevole afflusso di nuovi film nelle sale cinematografiche. Ne parleremo diffusamente durante questa nostra puntata, a cominciare dalla commedia americana che porta sul grande schermo un film che è il sequel di un film di un paio di stagioni fa, solo che quando era stato prodotto e poi era arrivato anche in Italia 21 Jump Street, Jonah Hill e Channing Tatum erano un po' agli albori di una carriera che prometteva grandi cose, ma insomma ancora forse non le aveva del tutto consumate. Invece li ritroviamo vere e proprie star in questo 22 Jump Street, di cui ascoltiamo una clip. Come butta? Siamo tornati. Ragazze, non è fregato un cazzo a nessuno della riproposta di Jump Street, ma siete fortunati. Questo dipartimento ha investito un mucchio di soldi per assicurarsi che la Jump Street continui a vivere. L'unico problema è che i coreani hanno ricomprato la chiesa, quindi ci trasferiamo dall'altra parte della strada, al 22 di Jump Street. Ricordiamo un po' l'iter produttivo di questa nuova saga cinematografica. 21 Jump Street era un telefilm, una serie televisiva anche piuttosto prolifica, che tra l'87 e il 91 aveva messo insieme 103 episodi nella televisione americana. Era una serie poliziesca che raccontava appunto di una piccolo dipartimento di polizia che stava appunto al 21 di Jump Street, specializzato in casi inerenti ai minorenni. E così i produttori del primo film avevano pensato di far rivivere le gesta di quella serie in un film per il grande schermo del 2012, appunto, dove si raccontava di questi due che avevano frequentato la scuola di polizia con esiti alterni, diciamo così, e che erano stati sbattuti in questo piccolo dipartimento, praticamente infiltrati in una high school per stare attenti a che cosa si muoveva nell'ambito della droga fra i ragazzini, loro che ragazzini sembravano effettivamente. E allora dopo quella prima esperienza si torna questa volta con 22 Jump Street, dove Jonah Hill e Channing Tatum, nella migliore tradizione della commedia americana, fanno l'upgrade e arrivano all'università, arrivano al college, perché una nuova droga che si chiama Mi-Fi sembra aver invaso le università e ha già causato la morte di qualche giovane. Allora i nostri due, Jonah Hill appunto e Channing Tatum, dovranno cercare con i loro metodi abbastanza comici di venire a capo di questa situazione, tra l'altro sotto la guida di un capo che ha il volto ruvido di Ice Cube, quindi mai fu più azzeccato un personaggio in questo senso. Noi siamo già in collegamento con il nostro Boris Sollazzo, che saluto, ciao Boris. Buongiorno a tutti. Boris, allora, ci eravamo molto divertiti con il primo 21 Jump Street. Nel frattempo questi due attori sono diventati delle star di livello internazionale, pluriaffermate. Reggono loro il peso del film sulle spalle o insomma c'è qualcosa di più? Sì, reggono loro il peso del film sulle spalle, lo reggono anche i registi che in qualche modo hanno la furbizia di tenere questo sequel sugli stessi binari del film precedente, senza però fargli tenere la stessa velocità di crociera, usare lo stesso treno, insomma, usando questa metafora, perché hanno la capacità che forse vedevamo qualche decennio fa in film e serie come Beverly Hills Cop, cioè quella di rimanere molto leggeri su un genere che è quella dell'action comedy, sul buddy movie di due attori che, come dici tu, sono diventati grandi nel frattempo e sono diventati anche seri, cioè da attori di commedia sono diventati anche attori profondamente drammatici, sia Channing Tatum che Jonah Hill, ma che hanno la capacità di rivestire quelle divise, tra virgolette, che non sono tanto le divise da poliziotti quanto le divise da studenti, che se rischiavano di non sembrare credibilissime nel primo, adesso lo sembravano ancora di meno, proprio per tutta la carriera che gli abbiamo visto fare, che ci è capitata davanti. E invece trovano più o meno gli stessi ingredienti, una sorta di politicamente scorretto, una capacità non comune di stare insieme, insomma, sembrano come Stanlio e Ollio nel terzo millennio e un po' coatti, come si direbbe a Roma, insomma, un po' atteggioni, con questo vestiario e questo ringiovanimento che funziona moltissimo anche per le facce che si prestano e con la capacità di inserire all'interno della dinamica dell'action comedy anche qualcosa di quei collegial movie che rendono ancora più divertente e dinamico il risultato. Insomma, il sequel di sicuro non arriva ai livelli di ritmo e di divertimento dell'originale, che a sua volta forse pagava qualcosa per quanto riguarda la serie, però si tiene comunque su livelli molto alti, è più citazionista rispetto ai modelli che ha, soprattutto anni 80 e primi anni 90, e si piace forse un po' di più, però alla fine ci si diverte ed è quello che conta ed è quello per cui è stato fatto, e quei due secondo me vanno visti sia in film drammatici che in film comici ancora molto a lungo, perché sono veramente una delle coppie più omogenee e che più funzionano davanti allo schermo che abbiamo visto negli ultimi anni. Voi due figli di puttana tornerete al college. Oh sì. Cosa? Bagni misti? Cazzo. Allora non potrò cagare finché saremo qui. Gireremo per classi e corridoi e chiederemo della droga per scoprire chi è lo spacciatore. Siamo vecchi noi o qui sembrano tutti bambini? C'è chi cerca di studiare, quindi abbassate la voce a livello zitti. Il livello che intendi è questo? Chiudi. Cazzo di bocca. Sembrate anche due vecchi. Siete vecchi un botto per stare qui. Siamo la Jump Street. E ora siamo tornati in strada. Mm-hmm. Al Civico 22. Ancora una clip da 22 Jump Street. Boris, un piccolo approfondimento sui due protagonisti. Dicevi, stanno bene insieme, anche se i loro percorsi dopo il primo Jump Street del 2012 hanno seguito anche fatalmente strade molto diverse. Channing Tatum si è portato a casa un paio di film con Steven Soderbergh, Effetti Collaterali e lo ricordiamo anche il più recente Magic Mike, nel quale era praticamente protagonista nei panni di uno spogliarellista. Insomma, è diventato un po' un oggetto per spettatrici, diciamo così, Channing Tatum. D'altra parte Jonah Hill si è buttato su un cinema d'autore che gli ha visto mettere insieme le regie di Django Unchained, Quentin Tarantino, di Wolf of Wall Street, Martin Scorsese, insomma cose di una certo spessore. Ricordiamo tra l'altro anche il suo bel ruolo nell'Arte di vincere insieme a Brad Pitt. Sono due attori che possono diventare, secondo te, anche protagonisti da soli? Sì, assolutamente sì, in qualche modo Channing Tatum già lo fa, già lo è in film forse più leggeri, meno sostenuti di Jonah Hill, ma Tatum più di una volta è stato protagonista o coprotagonista e ha dimostrato di poter tenere comunque sulle spalle un film. Ovviamente quasi sempre in un contesto abbastanza corale, come tu ricordavi in Magic Mike. Jonah Hill secondo me corre qualche rischio in più, perché è talmente bravo a nascondersi anche, ad essere eccezionale, fenomenale, lasciando magari la luce dei riflettori agli altri, che rischia di fare la fine dei grandissimi caratteristi americani del dopoguerra, che penso uno su tutti a Chas Palminteri, ma anche a uno come Turturro, che ci ha messo un po' a trovare la luce dei riflettori, e tanti altri, o a James Gandolfini per esempio. È talmente bravo ad essere tutto quello che vuole un regista che nessun regista potrebbe volerlo avere solo come protagonista, e quello è il suo unico rischio. Prendo proprio quello che hai citato tu, The Wolf of Wall Street, quel tipo di ruolo che lui fa poteva farlo solo ed esclusivamente lui. Ciò non toglie che probabilmente con un'altra impostazione noi avremmo potuto vedere persino un The Wolf of Wall Street con protagonista Jonah Hill, lo avrebbe saputo fare benissimo. Forse DiCaprio non avrebbe saputo fare il suo ruolo, però. E allora, questo era 22 Jump Street. Tra l'altro, guardando le fotografie, devo dire che Channing Tatum sembra sempre più Tom Hanks da giovane, quindi si sta anche avvicinando a una tipologia fisica, probabilmente, che gli darà un certo tipo di percorso. Vedremo se 22 Jump Street entrerà nella classifica dei film più visti di questo fine settimana, classifica che, come facilmente previsto la settimana scorsa, è dominata in questo weekend da Transformers 4, l'era dell'estinzione, che ha portato a casa 2.800.000 nel weekend e quasi 4 milioni dall'uscita che è stata anticipata di un giorno, seguito da mai così vicini. Invece in America domina Apes Revolution, che arriverà in Italia fra poche settimane, mentre al secondo posto c'è Anarchia, la notte del giudizio di James De Monaco, un altro caso per questa che sta diventando una sorta di saga dell'horror sociale, questo notte del giudizio, di cui parleremo fra poco perché arriva proprio in questo fine settimana in Italia. Ma adesso invece dedichiamoci a un altro film che mette insieme un cast che vede grandi vecchi, fatemeli chiamare così, come Daryl Hannah per esempio, o come Rutger Hauer. È un film diretto da Alessandro Capone, si intitola 2047. I believe I've uncovered something that can bring down the Confederation completely. They have committed mass genocide. Well, you're on my team now, so let's get this shit rolling. Your mission is already accomplished. Can't do that, Sponge. Tra i grandi vecchi ho dimenticato Michael Madsen, Stephen Baldwin e Danny Glover. Come dire, c'è gloria per tutti in questo film post-apocalittico che ci porta in un mondo appunto del prossimo futuro del 2047, un mondo classicamente, per quanto riguarda questo genere di film, in mano a un governo centrale confederato che sostanzialmente stermina tutti quelli che si oppongono. Boris? Ma Alessandro Capone è un regista molto interessante. Io ricordo L'amore nascosto, ricordo che di fatto è stato lui a scoprire Melanie Laurent, quindi non stiamo parlando di un regista poco capace, ha un immaginario molto interessante, ha un'intelligenza registica rara. Faccio fatica a fotografare questo film, che chiaramente è imbevuto di una quantità di visioni proprio personali incredibile. Da Blade Runner ai Mercenari mi sembra che ci sia più o meno tutto. Il problema è anche ciò con cui hai a che fare: apparentemente un cast all star, di fatto però un cast più vicino alla pensione di quanto si creda. Cioè, penso appunto a Daryl Hannah, Rutger Hauer, Danny Glover, oppure di ex stelle mai brillate come Stephen Baldwin. Metterli insieme è un po' come fare la partita del resto del mondo o quelle amichevoli in cui si mettono insieme varie selezioni di una regione nel precampionato delle squadre di Serie A. Si arriva a un risultato che è sempre poco omogeneo, e qui si arriva, come dicevi tu, a un film post-apocalittico che ha i suoi pregi nell'essere piuttosto cupo, senza essere banale, è piuttosto agile nella forma, però anche i suoi difetti nel non riuscire mai a entrarti dentro, a fare qualcosa che ti possa scuotere, e sappiamo che questo genere ti deve in qualche modo far mancare la terra da sotto i piedi, volendo fare un gioco di parole piuttosto facile. E invece tu questa paura, questa immedesimazione in un mondo folle non la vivi mai, e quindi nel 2047 realmente non ci arrivi. Molto probabilmente è più colpa di un progetto produttivo non sempre chiaro che di un regista, che comunque va considerato, perché le cose più interessanti di 2047 sono quei momenti di regia in cui Capone prende con tutte e due le mani la macchina da presa e decide cosa fare. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la seconda parte del nostro programma, come abbiamo detto, si concentra su un film che va su un solco ormai, come dire, piuttosto levigato, quello aperto, riaperto se vogliamo, negli ultimi anni da Una notte da leoni e da quella saga, dopo che però ricordiamolo, in passato Martin Scorsese con After Hours, piuttosto che John Landis con Tutto in una notte, avevano già segnato la strada. Storie che si consumano in una notte nella quale bisogna cercare prima di tutto di capire chi si è, dove si deve andare e come fare a uscirne vivi. L'originalità di questo film, di Una notte in giallo, questo è il titolo del film, diretto da Steven Brill con Elizabeth Banks protagonista, è proprio il fatto che la protagonista è una donna, e questo poteva dare al film chiaramente una patente di originalità che forse non è riuscito a dare del tutto. Ma sentiamo una clip. Mi sono persa, non ho telefono, né soldi. È uno sbirro sotto copertura. È uno sbirro, lei è la bambola del notiziario. Non sono uno sbirro, io, è vero, sono lei. Sono proprio lei. Noi adesso usciamo, avanti, andiamo. D'accordo, ma rimango vestita così. Indosserai qualcosa di provocante come Denise. Non ho nulla di provocante come Denise. Perché c'è tutto questo rumore? Shelley, siete pronte? Vuoi prendere una boccata d'aria? Ottima idea, tu rimani qui. Sei incastrata? Sì, sono incastrata. Ti porto a casa sana e salva. Dove abiti? Dove abiti tu? E questa notte d'amore sarà proprio il problema di Meghan, bellissima, avvenente annunciatrice televisiva, giornalista televisiva, conduttrice di notiziari, che sta aspettando la classica promozione in redazione. Va proprio a sfogare la notizia, poi rivelatasi falsa, che il posto è stato assegnato a un'altra, con le amiche, in una notte di bagordi che finisce appunto nel letto che abbiamo appena sentito. Il problema è che dopo la notte di bagordi il letto non è praticamente localizzato sulle geomappe, quindi la nostra, la mattina quando si sveglia, anzi la notte quando cerca di andarsene alla chetichella, non sa dov'è, non ha telefono, non ha borsetta, non ha più niente, e deve cercare di arrivare alla svelta, perché dall'altra parte della città, perché la sua segreteria telefonica invece l'ha ascoltata e dice che in realtà quel posto è suo, è lì che l'aspetta, l'aspetterà la mattina dopo se arriverà in orario. Ho proprio bisogno di un amico. Per favore, prestami la tua bici. Ok. Sei un angelo. Fammi vedere le poppe e ti presto la bici. Ciao. Non può riavere la macchina se non mi prova che è sua. Senta, io ho le chiavi. Visto? Boop, boop. Ha visto? Ha fatto boop, boop. No. Non può bloccare il boop, no, boop con, no, le mani. Boop, boop. E allora, Boris, una notte in giallo. Ho approcciato questo film con tanta speranza, però devo dire anche ne sono uscito con un pizzico di delusione. Mi sono fatto un'idea, adesso vediamo se la condividi, quella che da una parte ci sia un problema di sceneggiatura, cioè di cose troppo già viste, tra l'altro ci sia un problema di tenuta dello spessore della protagonista, che a mio modo di vedere non ha la personalità per portarsi qui sì sulle spalle un film di questo tipo. Insomma, se ne esce alla fine forse un pochino troppo annoiati, che per un film di questo tipo non è proprio il risultato migliore. Sono pienamente d'accordo con te, e forse non è nemmeno un problema della protagonista, nel senso che Elizabeth Banks un altro tipo di film se lo sarebbe potuto portare benissimo sulle spalle, però questo è un film che, fragile com'è nella sceneggiatura e debole com'è nel soggetto, perché come dicevi tu ormai il soggetto di Tutto in una notte viene utilizzato in qualsiasi contesto, basti pensare che questa settimana c'è addirittura un horror che viene organizzato Tutto in una notte, che è Anarchia, e Elizabeth Banks non è l'attrice adatta a questo tipo di racconto, a questo tipo di impresa. Si sarebbe dovuto pensare a qualcuno forse come Cameron Diaz o Heather Graham, qualcuno che avesse anche la faccia per portare, per indossare questo giallo di questa notte. E il fatto è che, come dici tu, poi si finisce per annoiarsi molto in un film in cui bisognerebbe annoiarsi poco, perché parliamo di un giorno, parliamo di una rincorsa folle a qualcosa che si credeva perduto e che invece si deve riottenere. Si parla di una donna che si è consolata di un dolore che non doveva provare e che quindi in qualche modo deve mischiare ansia di ritrovare quell'obiettivo al rimpianto di non essere stata abbastanza prudente. Bisognerebbe avere paura e immedesimazione noi spettatori per tutte quelle volte che forse siamo stati troppo leggeri o troppo sfiduciati e non abbiamo creduto che le cose potessero andare bene, e invece tutto questo non succede, rimaniamo sempre fuori dal film, lo vediamo sempre da lontano e ci rimangono solo un'attrice bellissima e abbastanza capace che però fa un compitino, e quello sì, alcuni buoni caratteristi che non fanno proprio precipitare il film, che non lo rendono invedibile ma solo, come hai detto tu esattamente, piuttosto noioso. Tutte e tre faremo un bel piano per sistemare la tua vita. Ok, ragazze, lasciamo stare le mie disgrazie, va tutto bene. Non sono una rompipalle, ricordi? Quindi andate, resterò da sola con il mio programma di musica. No, non ti lasceremo qui da sola, non hai più neanche il cane. Veramente era il cane di Kyle? Che importa? Perché non ti prendi un gatto? Già! I gatti mi odiano, non te lo ricordi? Sembrano puliti, ma in realtà sono davvero sporchi. Mi dispiace, ok? Comunque adesso noi andiamo in un locale dove incontrerai un giovanotto idiota e attraente con cui farai del sano sesso, così ti passerà tutta la rabbia. Che dici? Non lo so, non ho mai avuto un'avventura. Io sono più un tipo da relazione fissa. E allora, questa è la recensione di Una notte in giallo per quanto concerne questa settimana al cinema. Noi a questo punto apriamo la prima parentesi della nostra puntata sul nostro game. Come sempre, due tracce di un film misterioso fino a quando qualcuno di voi non lo indovinerà e si porterà a casa uno dei due, questa settimana, tre DVD in palio. Sentiamo. Voi fate tutti così. Quella è l'emozione. Adesso tu vai là sopra, fai il pezzo tu e tutto è a posto. Stai tranquillo. Pezzo? Quale pezzo? Una cosa qualunque. Tu sei giovane, la sai una canzone? Sì, ne ho scritte una per la mia ragazza. Hai visto? Sì, ma mi piaceva. E allora hai già vinto. Quelle le donne tanto, non capiscono niente. La Rosa Purpurea @radio24.it è come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica al quale inviare la risposta, il titolo del film, ma anche il vostro indirizzo, mi raccomando, perché sennò ricercarvi in caso di vittoria è abbastanza difficile. Io vi ricordo che fra poco però vi faremo ascoltare un'altra traccia. Allora, cominciamo a parlare di un film che a mio modesto avviso è il film della settimana, perché The Purge, come si chiamava il primo film in Italia tradotto in La notte del giudizio, è arrivato al suo secondo capitolo, che si chiama Anarchia, La notte del giudizio, è un film che ancora una volta sorprende, a mio modo di vedere, perché non era facile pensare di rifare una sorta di sequel di un film che raccontava come una società americana del futuro prossimo venturo, di fra una decina d'anni diciamo, avesse risolto tutti i suoi problemi semplicemente di sicurezza, di violenza, semplicemente liberalizzando gli omicidi per una notte all'anno. C'è una notte all'anno voluta e organizzata in pompa magna dal governo, nella quale dalle 7 di sera alle 7 del mattino si può fare quel che si vuole dentro e fuori dalle strade, si può ammazzare, si può vendicarsi, si può fare di tutto, non si è sicuri neanche a casa propria, perché le case, benché vengano blindate, sono comunque in qualche modo permeabili. E dopo il primo film, che era stato un grande successo, con questo James De Monaco, il regista, che si era veramente affermato anche agli occhi dell'industria cinematografica americana, aveva prodotto un film che poi aveva portato a casa 89 milioni di dollari worldwide, in giro per il mondo, essendone costati forse 3 o 4. Cosa potevamo fare di diverso in un sequel? Bene, portare l'azione fuori dalle case. Mentre il primo film si svolgeva tutto dentro, questo si svolge tutto fuori, in mezzo alle strade di una città ancora una volta blindata per la notte del giudizio. Il traffico sta aumentando velocemente. I cittadini si preparano a raggiungere le loro case prima dell'inizio. Sii prudente. Sii prudente. Se non parteciperete allo sfogo, vi consigliamo di lasciare le strade il prima possibile. Questo è l'inizio dello sfogo annuale. Ogni crimine, incluso l'omicidio, sarà legale per le successive 12 ore. Tutti i servizi d'emergenza saranno sospesi. Non puoi uscire. Sai che è pericoloso. Non ti farà stare meglio. Non farlo. Vattene, te ne devi andare via. Esiste una regola non scritta nello sfogo. Non salvare vite. Che cosa? In questa notte noi prendiamo vite. Così dopo diventa tutto più gestibile. Perseguitare. Non possiamo avere eroi. Nessun eroe. Boris, nel primo film c'era Ethan Hawke che, come dire, nobilitava il cast sotto il profilo della popolarità. Qui c'è Frank Grillo praticamente protagonista insieme a una serie di attori quasi totalmente sconosciuti nel panorama italiano, ma molto molto bravi, e come dicevo si compie una sorta di miracolo, perché ancora una volta il film regge. Assolutamente sì, forse senza Ethan Hawke regge anche meglio, si torna all'horror o comunque al thriller che non ha bisogno degli attori, che li utilizza come merce sacrificabile sull'altare dell'intrattenimento in tutti i sensi, sia sull'altare della regia, sia sull'altare della sceneggiatura, sia proprio sull'altare dei cattivi che qui non mancano. De Lurge era stata un'intuizione meravigliosa, carpenteriana, di un mondo che sostanzialmente mangia se stesso. Secondo me De Monaco, che è uno molto pop, senza andare indietro a Carpenter, che sicuramente lo ha in qualche modo influenzato, ha intuito le potenzialità commerciali che nascevano dall'action melò di Hunger Games, che poteva essere rivolto appunto in un'atmosfera più cupa e di fatto notturna. Poteva essere un fallimento totale, di fatto Anarchia la notte del giudizio, per stessa ammissione dei produttori, nasce perché il primo film era costato 3 milioni di euro e ne aveva incassati 89. Era insomma un'occasione troppo grande per non fare bottino pieno. Qua ce ne sono di più di soldi, però sono spesi benissimo, c'è una maggiore consapevolezza anche politica, come dici tu c'è la idea geniale di rovesciare il campo di gioco, non è tutto all'interno ma è tutto all'esterno, quindi c'è anche una discreta difficoltà in più da una parte, dall'altra forse no, perché chiudersi dentro una casa è altrettanto difficile per il regista, e mi sembra che anche in questo caso si venga promossi a pieni voti. Con De Monaco e con questa saga, che non sappiamo se tornerà ancora, ma ce lo auguriamo, torniamo a quell'horror significativo e significante degli anni passati, quando messaggi politici e sociali, anche molto elementari ma molto ficcanti, venivano trasmessi da film di genere di grande intrattenimento e di grande efficacia, spesso a costi molto, molto bassi. Quindi non posso che essere d'accordo con te che questo è sicuramente il film della settimana. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, stiamo parlando e continuiamo a parlare per un attimo di Anarchia, la notte del giudizio, quello che abbiamo ribattezzato il film assolutamente da non perdere di questa settimana, questo B-movie horror thriller, diciamo, americano, che è il sequel di The Purge, la notte del giudizio, e che racconta una notte americana dalle 7 alle 7, dalle 7 di sera alle 7 del mattino, nella quale si può fare tutto, compreso uccidere, anzi, soprattutto uccidere, e questo serve a purificare un'America del futuro arrivata all'1% di criminalità grazie proprio a questa notte del giudizio annuale, una sorta di notte rosa, chiamiamola notte rossa probabilmente, date le conseguenze voluta dal governo. Boris, parlavi poco fa della potenziale politico, è vero, di questo film, che a mio modo di vedere accelera un pochino sotto quell'aspetto rispetto al primo film, però io volevo far ascoltare ai nostri ascoltatori, anche a te, questa piccola clip, perché c'è una interessante deriva nell'ultimo quarto d'ora del film verso una sorta di Hunger Games. Sentiamo. Che cazzo stanno facendo? Che cazzo ci volete fare? Signore e signori, un nuovo lotto è appena arrivato. Visto che siamo arrivati all'ultima purificazione, il prezzo di partenza sarà $200,000. Purificatori, andate a prepararvi. A tra poco sul terreno di caccia. Ricorda tutto il bene che porta lo sfogo. Beh, Boris, ricorda qualcosa, diciamo così, no? Questa, c'è anche la capacità di strizzare l'occhio, se vogliamo, un po' alle mode del momento, perché qui siamo proprio in pieno ambiente Hunger Games. Beh, assolutamente. Io trovo che ci sia, soprattutto forse in questa Anarchia, ancora più che in The Purge, una capacità di mettere insieme sia il nostro immaginario passato, Carpenter su tutti, ma sia un immaginario modernissimo. Io ho trovato Hunger Games, e qui effettivamente è quasi regalato, fa pensare a una citazione che può trascendere quasi nella sfida, ma c'è nella lotta contro il tempo di un appuntamento semestrale di 6 ore con la morte legalizzata, forse anche quell'In Time di Nicol, che è stato molto sottovalutato e che invece è stato un film molto interessante, proprio sulla riflessione di come ci possa essere una vita a tempo, una vita che vale così poco da poter essere frutto di una mercificazione, che può essere una sfida senza regole che dura una notte o appunto un conto alla rovescia. In questo senso forse De Monaco, la grandezza di De Monaco sta nel prendere una quantità di immaginari diversi, anche di estetiche diverse, e riunirle nella sua idea, nella sua idea fulminante, semplice, facilissima, ma che ha avuto solo lui in questi termini e se la gode tutta, che in qualche modo le racchiude tutte queste buone intuizioni. Avremo costantemente persone davanti e persone dietro. Spostiamoci sempre e andrà bene. Quelli come noi non sopravvivono stanotte! È la mia notte! Mi sfogo! La mia purificazione! Arrivano! E allora, aspettando James De Monaco anche a una prova con un cinema più mainstream, che inevitabilmente arriverà, perché il meccanismo americano è molto molto chiaro, cioè uno che fa due film così e ha una redditività di quel tipo non porta a casa il terzo ancora con un B-movie, e probabilmente già starà lavorando a qualcosa. Dicevo, vi ricordiamo ancora Anarchia, la notte del giudizio, negli schermi e sugli schermi nei cinema italiani. Noi invece vi facciamo ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Io, siccome Kitasha consente, figlietti voi capire. No, Kitasha sta zitto. Kitasha consente. No, Chiaramonte, Kitasha sta zitto. Kitasha consente. Kitasha sta zitto, Chiaramonte. Kitasha consente. Kitasha sta zitto. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Bisogna un po' scavare nel passato di spettatori, soprattutto se non siete proprio giovanissimi, perché insomma qui siamo un po' indietro nel tempo, ma con un personaggio molto molto caro al pubblico italiano. Insomma, ho cercato di aiutarvi per quanto possibile. Settimana prossima vi faremo sapere qual è il film. Vi ricordo, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo. Boris, siamo arrivati all'ultima delle proposte di questa settimana al cinema, un'altra commedia in una settimana abbastanza contrassegnata dalla commedia, devo dire. Stiamo parlando di Provetta d'amore, gioco di parole piuttosto semplice e scontato, se vogliamo, per raccontare la storia di Tommy, che, temendo di essere sterile, ingaggia sostanzialmente i suoi amici per rubare da una banca del seme un suo versamento, chiamiamolo così, effettuato qualche anno prima. Sentiamo. Sono mesi che mi faccio un mazzo così per metterti incinta. Lavoro. L'eiaculazione è normale? No, perché ho letto in rete che gli uomini fingono oggi. Come fanno a fingere? Lo tengono in una bottiglietta vicino al letto e te lo spremono sulla schiena. Dovevi solo masturbarti in un barattolo, non era difficile. Dai, su, quante volte l'avrai fatto in vita tua? Un centinaio? Sì, almeno 100, sì. Il tema della maternità, della paternità mancata, difficile, insomma, ritorna al cinema, è un tema ricorrente, come sempre il cinema fa un po' da spugna di quelli che sono gli argomenti che girano nella società. In questo film che appunto si intitola Provetta d'amore, The Baby Makers, il titolo originale, con Paul Schneider, Olivia Munn nel cast. Boris, ci sono, come dire, novità sul fronte di questa tematica cinematografica, o si va via, cioè, come dire, più commedia che tematica? Purtroppo no, purtroppo sulla paternità non voluta, tra virgolette, o voluta troppo, non abbiamo molte novità da questo film, che è davvero un film leggerissimo, che il meglio ce l'ha proprio forse nell'idea di partenza, in qualcuno che scoprendosi sterile vuole rubare la fertilità a qualcun altro, che rispetto al rovesciamento di senso che c'era in film per esempio come Starbuck, dove un uomo che aveva donato dello sperma si ritrovava padre di 533 figli, poteva essere la cosa più interessante. Però alla fine quell'idea diventa non un pretesto per andare oltre, per fare delle riflessioni magari un po' più serie, non parlo di seriose, parlo semplicemente di trovare altri campi da gioco su cui magari alimentare anche la commedia, su un qualcosa di più intelligente. Inevitabilmente, se si parla di paternità, non si può essere più leggeri di tanto. Lo stesso Starbuck, che voleva puntare sull'esagerazione di essere padre così tante volte, poi tirava in ballo temi più importanti. Provetta d'amore invece racconta di fatto la storia di uno che non ha avuto 500 figli, con un deposito dimenticato, ma che cerca quel deposito dimenticato, anche se sembra che parliamo di una banca, in fondo di una banca del seme si tratta, un deposito dimenticato, per farlo diventare qualcos'altro, per ritrovare la paternità che nel frattempo ha perso come possibilità. Appunto, il soggetto è molto interessante perché un qualcosa fatto con leggerezza in passato può diventare determinante per la tua vita, ma quello rimane un sasso nello stagno che, come appunto fanno i sassi nello stagno, allargano in qualche modo il riflesso del loro lancio per poco, ma più va avanti e più questo effetto si perde. E Provetta d'amore è proprio questo, un sasso gettato nello stagno di cui ci dimentichiamo molto presto. La sua conta spermatica è troppo bassa, così è come si presenta un campione normale. Questo invece è il suo campione. Sembrano ubriachi. Anche a lei, eh? Quando ho deciso di chiedere a Audrey di sposarmi, non avevo i soldi per comprare l'anello. Ho donato il mio seme e non darebbero mai dei soldi per del seme scadente. Sì, è fortunato, ne è rimasta una provetta. Vai! Mi dispiace, in realtà risulta venduta. E allora, Provetta d'amore, il film, abbiamo detto l'ultimo, invece abbiamo un minuto per segnalarne un altro, visto che è una settimana, come dicevo, molto abbondante, tra l'altro con anche il concerto di Duran Duran ripreso e diretto a livello di regia cinematografica da David Lynch, che insomma può essere interessante per chi ama i Duran Duran e per chi ama David Lynch, quindi anche quella è una possibilità. Chiaramente si vede un concerto, ma lo si vede con gli occhi di un grande autore, di un grande regista. C'è un film, Boris, su cui ti chiedo di spendere un minuto, perché è un'operazione interessante. Si intitola Io Rom Romantica. Sentiamo questa clip. Beh, che fai, non mi saluti? Non hai il coraggio, vero? Ma che vuoi? Aveva ragione mio fratello. Di voi non ci si può fidare, siete tutti uguali, bugiardi e traditori. Ma tutti chi? Sei zingara, no? Allora ci hai permesso di passare avanti. Oh, guardatemi, sono una povera zingarella. Vedi di andartene, cammina, dai. E cammina. Sei solo gelosa. Lo sapevi che piaceva a me. Allora Boris, il tentativo è quello di raccontare la storia di una diciottenne rom, Gioia, che vive nella periferia torinese e che vuole sfuggire da delle regole che sembrano segnate. Il padre vorrebbe che sposasse un ragazzo rom, ma lei ha altri progetti e soprattutto ama Woody Allen. Sì, è un film che viene tra l'altro dalla macchina da presa di Laura Lilovic, che aveva già fatto un film sulla, diciamo, sua passione per Woody Allen. Devo dire che questo Io Rom Romantica non ha la forza del precedente, che era davvero un gioiello, però è un simpatico melò, è un modo per raccontare l'integrazione o la disintegrazione di questa società, non con la cupezza e anche la forza autoriale di un Giovannesi, ma col brio della commedia. È una sorta di nuovo cinema paradiso visto dagli occhi di una ragazzina rom che vuole fare il cinema, che non vuole sposare chi decidono i genitori, che vuole prendere in mano la sua vita. È una specie di racconto e distruzione degli stereotipi che ci sono sia tra i rom sia nel resto della società. È davvero forse un film troppo leggero, troppo fragile a livello di sceneggiatura per un argomento così serio, però ha degli spunti, protagonista compresa, che vanno sottolineati, anche se io vi consiglio di recuperare il precedente perché a mio parere aveva una completezza maggiore, una forza maggiore. E questo per quel che concerne allora il film Io Rom Romantica. Piacerà, diciamo così, come si dice, si usa dire, piacerà al pubblico, per esempio, che ha amato Sognando Beckham o Il mio grasso matrimonio greco, queste commedie romantiche al femminile dove appunto c'è una figura che cerca di uscire un po' dagli schemi, dagli stereotipi. Grazie Boris, e noi ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea, nella quarta parte del nostro programma, come sempre spazio al cinema da vedere in casa per non perdere, recuperare, rivedere, vedere per la prima volta film che hanno fatto un po' la storia del cinema. Cominciamo però come sempre con l'home video e con la soluzione del nostro game della scorsa settimana. Il tizio che lo ha dipinto agli occhi di tutti era bravo quanto il vero pittore. Allora, chi è l'artista? Il pittore? Oppure il falsario? Si trattava di American Hustle, del quale parliamo con gli amici del settimanale Film TV. È in collegamento con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Si arriva in Blu-ray l'ultimo film di David O. Russell, gioco di scatole americanissime, più storia di un impostore, della sua amante, di sua moglie, di un agente FBI assolutamente fuori controllo e di una round di truffe, doppi giochi e salti tripli di sceneggiatura, il tutto al ritmo di una meravigliosa colonna sonora settantesca. Il film è una sorta di versione carnevalesca di un film di Scorsese in cui, come sempre nel cinema del regista di The Fighter, si esaltano gli attori, che qui sono Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams e Jennifer Lawrence. 10 candidature agli Oscar, nessun Oscar, e un Blu-ray accurato con tracce audio lossless di TSHD, making of, scene estese tagliate. E allora, questo per quanto concerne American Hustle, che era il film misterioso della scorsa settimana. Fra i grandi film di questa stagione c'è sicuramente anche Grand Budapest Hotel, che arriva a pochi mesi dalla sua uscita sul grande schermo anche in home video. Tu chi sei? Sono Zero, signore. Il nuovo Lobby Boy. Zero, hai detto? Sì, signore. Non ti ho mai visto né sentito parlare di te. Chi ti ha assunto? Il signor Mosher, signore. Signor Mosher! Sì, Monsieur Gustave. Devo intendere che lei ha surrettiziamente assunto questo giovanotto con l'incarico di Lobby Boy? È stato ingaggiato per un periodo di prova in attesa di una sua approvazione. Forse, sì. Si esce in DVD, Blu-ray e nei principali store digitali l'ultimo bellissimo film di Wes Anderson, in cui l'autore texano anagramma il suo cinema a quello di gloriosi immigrati del cinema classico, del cinema che fu Ernst Lubitsch su tutti, raccontando la mirabolante storia di un luogo, il Grand Budapest Hotel, in una repubblica assolutamente di fantasia che è quella di Zubrovka, e anche dei personaggi ovviamente che l'hanno abitato. È una miniatura tenera, caricaturale, raffinata, che incorpora generi cinematografici diversissimi a rotta di collo, fa ridere, piangere, ed è ancora una volta un inno all'arte del raccontare storie, anche se spesso le storie di Wes Anderson sono bugie. Tra gli extra del Blu-ray e del DVD, una chicca che chi ha visto il film e chi vedrà il film saprà apprezzare, ovvero la ricetta segreta di Mendel. E questo per quel che concerne allora l'altra segnalazione delle novità on video nei negozi in questo periodo. Trasferiamoci sul piccolo schermo con i programmi televisivi, con la programmazione di film che arriva dai palinsesti TV, per trovare un paio di proposte davvero interessanti. Tornare indietro nel tempo con l'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, data 1971, un film in bianco e nero, ma un film che è rimasto assolutamente a colori nei cuori degli spettatori di tutto il mondo. I heard about the ball game last night. 121-14. Must be pretty near a record. What do you think he'd do if he found us? Shoot us, probably. Assolutamente, siamo nei primi anni 50 ad Aneren, città immaginaria come quella di Zubrovka del Texas, proprio mentre una saletta di periferia sta per chiudere i battenti sulle immagini del fiume rosso di Howard Hawks. Siamo alla vigilia anche della guerra in Corea. 20 anni dopo, l'ex critico Bogdanovich, che personalmente autore che adoro e che sarà tra l'altro ospite del prossimo Festival del Cinema di Venezia, getta uno sguardo profondamente impregnato di memoria cinematografica sugli anni 50, intesi come momento centrale della transizione verso una maturità amara e disillusa non solo di una generazione, ma di un paese che smette di sognare i sogni della fabbrica hollywoodiana e si scontra con la realtà. E ricordiamo allora l'appuntamento, l'ultimo spettacolo alle 2:25 della notte di lunedì 28 luglio su Rai Movie. E invece un altro classico, per motivi diversi se vogliamo, targato 1980, è il capolavoro comico del trio Zucker Abrams Zucker, l'aereo più pazzo del mondo. Aspetta un minuto, ma io ti conosco. Certo, sei Kareem Abdul-Jabbar, un giocatore di pallacanestro della squadra dei Los Angeles Lakers. Ah, mi dispiace ragazzo, ma mi hai confuso con qualcun altro. Il mio nome è Roger Murdoch e sono il secondo pilota. Sai, tu sei il mio giocatore preferito. Discuto sempre con papà perché lui dice che in difesa non vale un cavolo. Papà dice anche che certe volte ti risparmi un po', che non ti impegni. Sì, su Rai Movie giovedì alle 21:20, uno dei migliori film di Zsasz, i registi Jim Abrams, David Zucker e Jerry Zucker, che sono diventati famosi insieme al genio di John Landis, inventando una nuova comicità surreale, capace di smontare e far ridere dei meccanismi del cinema. Quello che si chiamava il cinema demenziale, che molto spesso è il luogo in cui è possibile vedere e smascherare gli automatismi del cinema, ma anche certi luoghi comuni del pensiero. Qui i tre prendono in giro la lacrimosa serie Airport, c'è anche la bambina che deve andare in ospedale per un trapianto, e i risultati sono esilaranti dalla prima all'ultima inquadratura, una parodia che, fatemi fare un po' il vecchio bacchettone, nulla a che fare con quelle di oggi, stupide più che demenziali. E allora l'appuntamento con l'aereo più pazzo del mondo è sempre su Rai Movie, giovedì 31 luglio alle 21:20. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana per i consigli di Film TV. Ciao Franco, alla prossima. E allora, dal cinema da vedere in casa al cinema da vedere nel prossimo futuro imminente italiano, nell'autunno cinematografico che ci aspetta del cinema italiano, tra l'altro un film che proprio questa settimana è stato ufficializzato, sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia fuori concorso, si tratta del film Perez, regia di Edoardo De Angelis, il cast incentrato sull'accoppiata vincente di Luca Zingaretti e di Marco D'Amore, due grandi attori, due attori con alle spalle un immaginario televisivo molto forte, uno in Montalbano, l'altro in Gomorra, e che però insieme saranno il cuore di questo film, che racconta un profilo, un personaggio molto particolare, quello di un avvocato d'ufficio, appunto interpretato da Luca Zingaretti, un po' pavido, che è alle prese con una vicenda criminale probabilmente più grande di lui. E allora noi, per parlare di Perez, che appunto sarà alla Mostra del Cinema di Venezia, in anteprima abbiamo avvicinato il regista Edoardo De Angelis. Allora, ti abbiamo lasciato con la mozzarella, ti ritroviamo con un sacco di pistole, con un thriller, con tinte cupe. Cosa è successo in questi anni? Come sei arrivato a questo progetto di Perez con il punto? Guarda, le pistole non ce ne sono tantissime, però escono fuori al momento giusto. Il momento giusto è quando Perez si appropria della sua identità, ed è per questo che ci mette un punto vicino al nome. E in quel momento lui decide di cambiare vita e smette di essere un uomo ligio al dovere, un avvocato d'ufficio rispettoso delle regole, e per salvare la vita di sua figlia in pericolo infrange ogni regola e ogni legge. Hai chiesto, da quello che si vede da queste prime immagini, uno sforzo importante a Zingaretti, cioè quello di una grossa metamorfosi durante il film. Sì. Devo dire che Luca, che è anche coproduttore del film, si è dedicato con grande passione, una cosa che sicuramente fa in ogni lavoro che lui affronta. Però qui l'ho visto proprio compenetrarsi nel personaggio e dargli corpo e voce, interpretando un sentimento che poi un desiderio di riscatto che è comune a molti uomini medi in questo momento, in questo paese. Ecco, mi sembra proprio che ci sia dentro nel film la capacità di raccontare un'umanità quotidiana e però di farlo anche con i crismi del genere. Molto spesso si fa un film di genere ma si rischia di mangiarsi un pochino il racconto, no? Proprio per aderire al genere. Qui mi sembra di vedere che sei riuscito a tenere in equilibrio queste due cose. Questo poi me lo dirai a fin finito. Il tentativo è questo. Il genere mi interessa, ma rappresenta per me una sorta di cassetta degli attrezzi. È uno strumento che mi può essere utile in alcuni momenti e meno utile in altri. Non avevo desiderio di fare un film di genere, ma avevo desiderio di fare un film su un personaggio che cambia, che si evolve. E in alcuni momenti ho utilizzato dei marker del genere noir che mi sono risultati molto utili per raccontare le atmosfere cupe di una Napoli strana, fredda, perché è la Napoli del centro direzionale, fatta di metallo e di vetro, dei grattacieli. Senti, un pochino, se vogliamo, il Gomorra e quello che è venuto dopo ha un po' modificato l'immaginario, o meglio, ci ha spiegato, ci ha dato, forse ancora meglio, un immaginario relativo al tema della Camorra oggi, perché eravamo legati magari a stereotipi un pochino più vecchi. Come hai lavorato tu al tentativo, ovviamente, di fare un film che comunque pescasse le sue immagini in un immaginario invece proprio, perché tante volte certi film sono talmente ingombranti che ti occupano tutti gli spazi visivi, diciamo, no? Sinceramente questo è un problema che io sento molto meno rispetto a un autore che può essere cresciuto in altre parti d'Italia. La mia indagine sui personaggi è un'indagine fatta proprio sul campo. Ho trascorso molti mesi in tribunale, ho intervistato a lungo molti PM oppure avvocati che hanno difeso collaboratori di giustizia. Ho fatto uno studio, come mi piace fare, approfondito sulla realtà. Quindi l'immaginario a cui faccio riferimento è la realtà e poi la sua trasposizione in finzione, che passa attraverso quello che è il mio modo di vedere le cose. Ecco, perché per identificare l'uomo medio, come l'hai chiamato tu, diciamo all'inizio anche un po' mediocre forse, hai scelto questo ruolo anche così negletto, così poco visibile, dell'avvocato d'ufficio? Mi affascina l'individuo che ha le qualità per essere homo faber, per essere padrone del proprio destino, ma ha tirato i remi in barca per mille vicissitudini che non ci interessano e non raccontano. Io lo vedo, lo comincio a raccontare così com'è, e però vedo dentro di lui una scintilla, allora non faccio altro che dire vai, ce la può fare. Questo è l'invito che io faccio a Perez, che rappresenta un po' il sentimento che io ho sentito più forte attorno a me nel periodo in cui scrivevo questo film. Edoardo De Angelis alla Rosa Purpura per parlare di Perez, film che vedremo a Venezia. Avremo modo poi nelle prossime settimane di entrare meglio nella panoramica, appunto, dei tanti film che compongono la Mostra del Cinema di Venezia, che comincia il 27 agosto. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, appuntamento alla prossima settimana. Saremo sempre qui alle 15.30 del sabato e con la replica a partire dalle ore 15 per tutto il mese di agosto, la domenica con la Rosa Purpura. Un saluto da Franco D'Assisi.